on the road again. I just can't wait to get on the road again. A life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Ben ritrovati, riparte la stagione di Radio Libriamoci Web e da On The Road a On The Road torna con i suoi racconti. Io sono Olivia Napolitano, vi auguro un buon 2015 e vi do il benvenuto. Apriamo il nuovo anno in linea con i malanni di stagione, certo, chi vive On The Road deve far conto con le intemperie, reali e metaforiche. Quindi da oggi ascolterete il primo di tre racconti che hanno come protagonista la febbre. Una strana febbre, una febbre che altera oltre alla temperatura corporea anche la percezione stessa della realtà. La febbre può essere di diversa natura e così come arriva, incendia e confonde, allo stesso modo può sparire lasciando soltanto un senso di spossatezza. Un po' come l'amore, che come diceva Stendhal è come la febbre, nasce e si spegne senza che la volontà vi abbia alcuna appartenenza. Vi lascio quindi all'ascolto del racconto di Andrea Fabiani e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana su Radio Libriamoci Web. È successo qualche giorno fa, ero già fiorito. Si dice così quando ti ricopri di vescicole, me l'ha detto il dottore. Strano modo di dire, ho risposto. Ho preso la varicella alla soglia dei 40 anni. Non ho mai saputo scegliere i momenti giusti. Comunque, la varicella è una malattia, forse è per questo che è successo. Anche l'amore è una malattia. Questa è una banalità, lo so. Il che significa che è anche una cosa vera. Questo vuol dire banalità, cosa ovvia, nota a tutti. Il sole ti sorgeva sul seno al mattino. Era estate. Dormivamo nudi e con le finestre spalancate. Se mi svegliavo, guardavo l'alba tratteggiare lentamente il tuo corpo. Mia moglie ha detto che ho fatto il tuo nome quando avevo la febbre alta, o meglio, mi ha detto che ho fatto il nome di una donna. Mi ha chiesto chi sei. Non ho risposto. Non mi importa. Le cose vanno già in maniera orrenda tra noi. Da tanto. E poi non lo so perché ho fatto il tuo nome. È stata solo un'estate. 20 anni fa. Non avevamo niente. Ci sdraiavamo direttamente sulla spiaggia. Ti rialzavi e avevi piccole toppe di sabbia sulle ginocchia. Le indicavi e ridevi. La sera guardavamo le stelle per ore. Adesso ho la schiena piena di pustole rosse. Hanno forme e grandezze diverse. Non spuntano tutte insieme, ma poco alla volta. Si chiama effetto cielo stellato. Forse è per questo che mi sei tornata in mente. Non so. A fine estate ci siamo detti, finisce qui. La cosa più semplice da dire. La più facile da credere. Un'altra cosa che ha detto il dottore è che il virus della varicella non viene espulso. Resta dentro di noi, si nasconde nei gangli delle radici nervose spinali. Non se ne va. Pensiamo di essere guariti, ma non è così. Tu avevi il collo così lungo. Ti chiamavo Modi. Mi piaceva leccarlo, ti venivano i brividi. L'anno scorso ho pianto, dentro a un museo, davanti ad un Modigliani. Forse è stato per questo, chissà. Allora non ci avevo pensato. Ti avevo rivista da poco. Una mattina, mentre andavo al lavoro, camminavo svelto, i nostri occhi si sono incrociati, ma io ho fatto finta di essere distratto, di non averti riconosciuta. Accompagnavi a scuola tuo figlio. Oggi la febbre è più bassa, tra qualche giorno sparirà del tutto, poi comincerò a sfiorire. Già, la febbre. Una volta ci siamo baciati così a lungo che mi sono dimenticato di respirare. Ha cominciato a girarmi la testa. E mi sentivo debole e ho dovuto sedermi. Non mi è mai più capitato. Ti ho detto, mi fai sentire come se avessi la febbre. Deve essere per questo che ho fatto il tuo nome l'altra notte, mentre tremavo nel letto. L'amore è una malattia. Banalità. Verità. Il dottore ha detto che se voglio che non mi restino i segni, non devo lavarmi. Così oggi puzzo e sono depresso. e passo i pomeriggi ascoltando le canzoni del primo album dei Baustelle. Sai, la canzone del parco, gomma, adolescenti febbricitanti d'amore. Pensiamo di essere guariti, ma non è così. Tra qualche giorno farò una doccia e lascerò mia moglie. Mi sentirò meglio, ma il virus sarà ancora dentro di me. Ci resterà per sempre. Fa parte di me. Tra anni, quando sarò più debole, tornerà fuori come fuoco di Sant'Antonio e farà molto male. Avrò di nuovo la febbre. Forse è per questo che ho fatto il tuo nome. Stamattina ho scritto dei versi su questa cosa. Mi fa piacere sapere che non so quando, ma tornerai a farmi venire ancora una volta la febbre. Sono versi banali, lo so, sono veri.